Il y a un vrai clivage politique en France sur le sujet. C'è una vera e propria spaccatura politica sul tema in Francia. Solo il Figaro, che è un giornale di destra, ha chiamato le cose con il loro nome, ha definito Battisti un ex terrorista. Una grande parte dei media francesi invece non osano utilizzare le parole giuste e preferiscono restare nel vago. Dire che è un militante o ancora un attivista, che cosa vuol dire? Poco o niente? Personne ne sa cosa vuol dire esattamente, c'est pour ça qu'on emploie souvent ce mot-là. La personalità di Cesare Battisti, però, ha colpito anche al di là delle ideologie. Nei racconti degli incontri in carcere, Fred Vargas parla di un uomo magnetico che appassiona gli interlocutori. La stessa cosa è successa all'amico Gilles-Martin Chauffier. Moi, je l'ai trouvé, je l'ai rencontré. Io l'ho incontrato e l'ho trovato simpatico, disarmato. Cesare è una persona molto fragile che è stata perseguitata per tutta la vita. La mia è una solidarietà di tipo umano piuttosto che politica. È l'uomo Cesare Battisti che ha trovato toccante. C'est simplement c'est l'homme Cesare Battisti che j'ai trouvé touchant. Italia in controluce. Questa è la storia di un bravissimo giornalista italiano ucciso dalla mafia, è la storia di Beppe Alfano, la racconta per noi Sabrina Pisu. Quella sera ero a casa con i miei fratelli, mio padre uscì da casa per andare a prendere mia madre alla stazione ferroviaria di Barcellona perché lei lavorava all'ospedale di Patti. Passato insomma circa una quarantina di minuti, io sentii il rumore dell'auto di mio padre sotto casa nostra. Mi avviai per andare ad aprire la porta e ho sentito chiudere tutti e due gli sportelli, ho sentito aprire il portone di casa e poi subito dopo ho sentito richiudere il portone di casa e poi ho sentito un solo sportello e ho sentito la macchina di mio padre che partiva abbastanza velocemente. Sonia è la figlia di Beppe Alfano. Nel 1993 aveva 21 anni. Di quella sera dell'8 gennaio ricorda ogni istante. Sono andata verso la porta di casa e mi sono trovata mia madre davanti. La prima cosa che ho chiesto dove è papà. Mi disse stavamo entrando, lui poi si è girato, ha visto qualcuno e mi ha detto di salire sopra e di chiuderci dentro. Mio padre non ha mai detto una cosa del genere, neanche quando hanno tentato di entrare in casa qualche mese prima. Beppe Alfano ha 47 anni e vive a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. È un professore di educazione tecnica alla scuola media con la vocazione da giornalista. Non ha il tesserino, ma ha occhi per vedere e voce per raccontare un territorio dilaniato da una sanguinosa guerra di mafia. Prima le radio locali, poi la televisione. Da 3 anni era il corrispondente del quotidiano di Catania, la Sicilia. Appassionato di politica, militava nell'MSI di Giorgio Almirante con il suo spirito indipendente, intransigente. Qualche giorno prima di quell'8 gennaio le sue paure diventano certezze che confida alla famiglia. Non mi hanno ucciso a dicembre, lo faranno prima della festa di San Sebastiano, il 20 gennaio. Sapevamo che insomma sarebbe successo qualcosa perché l'avevano minacciato. Ho cominciato da subito a chiamare mio padre sul cellulare, ma lui non mi rispondeva più e subito dopo ho cominciato a sentire le sirene. Poi a un certo punto ho chiamato la redazione del giornale per il quale lui scriveva e ho chiesto se per caso avessero notizie di mio padre. E loro mi hanno detto sappiamo solo che c'è un morto ammazzato, un morto eccellente, proprio nei pressi di casa tua. Sono rimasta in silenzio e loro mi dissero come al solito lui sarà lì, avrà lasciato il cellulare in macchina. Mentre lui stava finendo di dirmi questa cosa, nella stanza da questo collega è entrato un'altra persona che ha detto hanno ammazzato Alfano e quindi io ho messo giù il telefono. La corsa di Alfano verso la verità è fermata da 3 proiettili in via Marconi, a pochi metri da casa sua. Quale delle sue inchieste aveva dato fastidio e a chi? Si è occupato intanto di un traffico di armi con i paesi del Sud America e subito dopo la sua morte fu aperta un'inchiesta. Aveva denunciato lui stesso delle truffe a danni dell'Unione Europea nel campo agrumicolo e per quanto riguardava l'allevamento di bestiame. Aveva più volte denunciato una gestione quanto meno approssimativa da parte dell'AIAS di Milazzo, aveva denunciato addirittura una truffa che l'AIAS stava facendo ai danni appunto dei cittadini, ai danni degli utenti. In quella che probabilmente gli è costata la vita, aver scoperto che a 30 metri da casa nostra aveva trovato ospitalità nel bosco Nitto Santa Paola. Le indagini sull'assassinio terminano nel novembre del 1993. Il giudice per le indagini preliminari di Messina emette 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere per Nino Mostaccio, il presidente dell'AIAS, Associazione Italiana Assistenza ai Disabili, che era stato coinvolto in un'inchiesta di Alfano. Giuseppe Gullotti è accusato di essere l'organizzatore dell'omicidio, mentre Nino Merlino è ritenuto uno dei killer. Gullotti viene condannato nel 1999 dalla Cassazione a 30 anni di carcere, Merlino nel 2006 a 21 anni e 6 mesi. Nino Mostaccio invece viene assolto. Restava in piedi una tranche di indagini che erano state aperte a febbraio del 2003 a seguito di mie dichiarazioni per il decennale della morte di mio padre. Io in quella sede avevo dichiarato che l'omicidio di mio padre era un omicidio che aveva subito numerosi depistaggi nelle indagini. A parere mio, insomma, c'erano dietro l'omicidio anche servizi segreti. Dopo 7 anni, maggio 2010, era stata richiesta l'archiviazione, invece il giudice si è opposto e ha concesso una proroga di indagini. Quando c'è stata la richiesta di archiviazione, ovviamente noi abbiamo avuto la possibilità di accedere al fascicolo del pubblico ministero. Quella sera, la sera dell'8 gennaio del 1993, a Barcellona, Pozzo di Gotto, c'erano Ross, Sco e Silde, i quali hanno messo per iscritto che sapevano che a Barcellona si nascondeva Nitto Santa Paola. Siamo di fronte ad una verità incompleta perché mancano i veri mandanti e il movente, dice il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Pier Giorgio Morosini. Rimasti ancora nell'ombra i veri mandanti di questo omicidio e soprattutto il movente di questo omicidio. Quindi chi ha mandato ad uccidere Beppe Alfano e perché? È una verità incompleta che dimostra anche i profili di fragilità della giustizia nel nostro paese, tempestiva nei confronti di quelli che premono il grilletto, quindi degli ultimi anelli della catena, perché molto spesso i mandanti godono di protezioni anche all'interno del circuito istituzionale. Talvolta dove non riesce ad arrivare la giustizia, riesce ad arrivare l'informazione dall'attività coraggiosa di un giornalista come era il giornalista Beppe Alfano. La storia di Alfano, in fondo, assomiglia a quella di tanti cronisti di provincia, sottolinea Leone Zingales, presidente del gruppo siciliano dell'Unione Nazionale Cronisti Italiani. Nelle periferie che si trovano con le punte di diamante. Non vanno dimenticate le figure come Alfano, come Impastato, come Stampinato, che hanno lavorato sempre nell'ombra. Sono stati proprio questi cronisti a dare un grosso contributo per la verità. Quali iniziative forti, si chiedeva Beppe Alfano, i politici barcellonesi hanno intrapreso presso il ministro degli interni affinché anche i cittadini possano finalmente iniziare a vivere tranquilli? Una domanda ancora valida dopo 17 anni. In questo comune a 40 chilometri dal capoluogo dello stretto, che per tutti è ormai la nuova Corleone. La seconda edizione di Italia in Controluce su Radio 24, trovate il mio blog, su Facebook il gruppo Radio 24 Italia in Controluce, su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Torniamo il 10 gennaio lunedì alle 6:30 su Radio 24.